Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Il cielo è azzurro sopra Berlino. Così, in una calda notte di luglio, Marco Civoli, telecronista ufficiale della RAI, commenta, parafrasando il titolo di un celebre film di Wim Wenders, la vittoria della nazionale di calcio italiana ai mondiali di Germania. Tutta l'Italia è in festa, alla fine di una sofferta finale contro la Francia, passata alla storia per la celebre testata di Zidane a Marco Materazzi. Una vittoria meritata ma inaspettata, dal momento che la nostra nazionale, alla vigilia del torneo, non è considerata una delle pretendenti al titolo. La RAI, per rivivere il percorso della squadra fino alla vittoria finale, manda in onda una clip della durata di circa 4 minuti sulle note di uno dei grandi successi dell'anno. Siamo nel 2006 e la canzone scelta come sottofondo è One, cantata da Mary J. Blige in duetto con colui che la canzone l'ha portata al successo già nel lontano 1992. E il nostro magnifico destino di oggi, il cantante degli U2, Paul David Hewson, conosciuto nel mondo intero come Bono Vox. Bono Vox prende il suo nome d'arte da un negozio di apparecchi acustici di Dublino, il Bonavox, anche se il cantante irlandese preferisce adottarlo per il fatto che in latino il suo significato si avvicina a bella voce. Figlio di padre cattolico e madre protestante, cresce nell'Irlanda attraversata dal punk, il movimento giovanile nato nella vicina Inghilterra, che influenza tutta la cultura di quegli anni, dalla musica alla letteratura fino alla moda. A Bono piacciono i Sex Pistols, i Ramones, i Clash, ma impara a suonare la chitarra con le canzoni dei Beatles. Inoltre si diverte anche a cantare, gli piace. Frequenta le scuole cattoliche irlandesi, coltivando uno spirito ribelle da musicista. È il 1976 quando la sua strada incrocia il primo magnifico destino di oggi, quello che più di tutti ha contribuito a cambiargli la vita, Larry Mullen. Larry Mullen è un ragazzo appena sedicenne di Artane, un sobborgo di Dublino. È un ragazzino schivo, introverso, che dopo aver preso qualche lezione di pianoforte preferisce imparare a suonare uno strumento capace di dare sfogo a tutte le sue insicurezze, la batteria. Fu mia sorella a regalarmi la batteria. Io prendevo lezioni di pianoforte, ma, come dire, non mi piaceva. Quando incominciai a suonare, mi ritrovai in poco tempo nella Artane Boys Band. Voglio dire, un'istituzione irlandese. Il fatto di essere entrato a far parte di una delle bande più famose della tradizione irlandese influenza il suo modo di suonare. E Larry affina uno stile che caratterizzerà tutte le canzoni degli U2. Sì, perché Larry Mullen nel 1976 decide di attaccare alla bacheca della scuola un volantino per cercare persone con cui mettere su un gruppo. All'appello rispondono Adam Clayton, Dave Evans, oggi conosciuto come The Edge, suo fratello Dick e Bono. Ci trovavamo in cucina, a casa mia, ad Artane. Sì, la prima volta che gli U2 si sono riuniti è stato in cucina. Sicuramente era il posto meno indicato per fare della musica. Mancava solo una tazza di tè. Eppure, tutto partì da lì. Larry Mullen ha appeso un biglietto alla bacheca della scuola. Vuole formare una rock band, così, per passare il tempo. Li ha invitati a casa e adesso sono tutti lì, seduti in cucina. I quattro componenti di quella che diventerà una delle rock band più famose del mondo. Non avevo idea di quello che volevo fare. Voglio dire, a 16 anni tutti vogliono mettere su una band e suonare con gli amici. Non mi importava niente di diventare famoso. Volevo solo divertirmi. Larry aveva 14 anni, io ne avevo 16. Quando risposi al suo annuncio, mi presentai come chitarrista, ma poi, dopo aver ascoltato The Edge, beh ragazzi, non c'era confronto. E così mi misi a cantare. Come ricorda Bono, il gruppo nasce come l'incontro di quattro ragazzini che hanno voglia di divertirsi senza avere un'idea precisa della musica che vogliono fare. Certo, sono influenzati dalla musica punk, ma anche dall'ultimo successo in classifica Top of the Pops. Rispetto ad altri, hanno il vantaggio di possedere un'attrezzatura completa, chitarre, amplificatori, cosa che non capita a tutti. Nonostante questo, Bono ricorda che le difficoltà iniziali sono parecchie. Innanzitutto non sapevamo suonare a tempo. Poi ognuno di noi doveva imparare e devo dire che tutta la nostra carriera è un continuo migliorare le nostre tecniche, il sound, gli arrangiamenti. È una continua ricerca. I quattro ragazzi di Dublino imparano prima di tutto a fare gruppo, a scrivere le loro canzoni insieme, aiutandosi l'uno con l'altro, correggendo gli errori e sperimentando nuove strade musicali. Alcuni si mettono in un angolo a comporre canzoni, in modo anonimo, senza partecipazione. Noi, invece, suonavamo un pezzo. Poi uno chiedeva all'altro, come ti sembra? Mi sembra buono, tu che ne pensi? Forse possiamo migliorarlo. E così andavamo avanti e costruivamo il pezzo mattone dopo mattone. Dopo aver trascorso poco più di un anno a suonare nella cucina di Larry Mullen, il gruppo inizia a presentarsi nei locali di Dublino. Prima si fanno chiamare i Feedback, poi The Hype. Finalmente trovano il nome giusto, U2, U2. E con questo partecipano a un talent show nella vicina cittadina di Limerick, il cui premio è molto ambito, 500 sterline e la possibilità di incidere in un vero studio una demo per la casa discografica CBS. Gli U2 naturalmente vincono e così, inaspettatamente, il primo demo ufficiale della loro storia comincia a circolare per gli uffici irlandesi della CBS. Il primo ad essere sorpreso è The Edge, il chitarrista del gruppo. Non ci potevamo credere. Eravamo soltanto dei ragazzini e quella notte la passammo in bianco anche se nessuno di noi aveva l'età per uscire a festeggiare. Eravamo scioccati da quello che ci stava succedendo. Eravamo contenti di aver vinto, ma non ci rendevamo conto del nostro vero valore. Penso che comunque quella vittoria sia servita al morale e a dare il via al progetto della nostra vita. E il destino si diverte spesso a giocare le sue carte in modo inaspettato. Talvolta con un abile concatenarsi di eventi riesce a cambiare la vita a più persone. I quattro ragazzi di Dublino non suonano più soltanto per divertirsi. Cominciano ad avere fiducia nei loro mezzi e sperano di incontrare qualcuno che creda in loro per raggiungere il successo. Un manager. Ecco ciò di cui hanno bisogno gli U2. La costruzione di una carriera può avvenire in differenti modi. Oggi c'è internet, ci sono molti strumenti che un giovane artista può usare per far ascoltare la propria musica. 20-30 anni fa dovevi avere una buona dose di fortuna. La voce che avete appena ascoltato è quella del secondo magnifico destino di oggi. È uno dei più importanti manager del mercato discografico mondiale, ma nel 1978 ha meno di 30 anni e la sua società, la Principal Management Limited, non vanta ancora nella sua scuderia di artisti qualcuno di veramente famoso. Il suo nome è Paul McGuinness e un giornalista del magazine Hot Press gli ha appena dato da ascoltare una cassetta con la demo di una giovane rock band irlandese. Oh, yeah. Oh, yeah. Anche per Paul McGuinness l'incontro con Bono e compagni sarà una svolta per la sua carriera di discografico. Dopo quasi 35 anni da manager degli U2, è opinione comune che gran parte del successo della band sia merito suo. Quando nel 78 esce il primo EP contenente tre canzoni, tra cui Boy Girl, il disco va a ruba in pochissimo tempo, portando alla ribalta dei locali di Dublino il nuovo gruppo guidato da Bono. Il successo è arrivato lentamente, a piccole dosi. Non è stato un percorso traumatico. Prima abbiamo conquistato Dublino, poi l'Irlanda, e da lì siamo partiti alla conquista del mondo. Però, malgrado tutto, siamo riusciti a conservare la nostra identità e il nostro carattere. Le parole di Bono sono quelle semplici di un ragazzo che affronta il mondo con incredibile serietà. Non è facile per quelli della sua età uscire dalla valanga del punk, ritrovarsi nel sound della new wave e rimanere ancorati alla vita di tutti i giorni senza eccessi e cadute di stile. I quattro ragazzi di Dublino non si conoscono affatto quando si incontrano per la prima volta nella cucina di Larry Mullen, eppure in pochi anni riescono a trovare quell'intesa perfetta che li tiene uniti per più di tre decenni, portandoli in vetta alle classifiche di tutto il mondo. Dalle parole di Larry Mullen si capisce lo spirito che tiene unita la band. La gente mi chiede perché non rilasci interviste, cosa pensi di questo o di quello. Il mio lavoro nella band è quello di suonare la batteria, di salire sul palco e far suonare insieme il gruppo. Questo è il mio compito e alla fine della giornata è l'unica cosa che mi sembra importante. Del resto me ne fotto. Paul McGuinness gioca molto bene le sue carte. In poco tempo tutta l'Irlanda conosce gli U2 e li identifica con il loro cantante, Bono Vox. Ma la forza della band è il gruppo e McGuinness lo sa. Per questo dirige sapientemente le interviste, facendo parlare anche gli altri componenti del gruppo. Una volta Adam, il bassista, la volta dopo Larry e infine The Edge. Anche se il punto di riferimento è sempre Bono, McGuinness riesce a valorizzare tutti in modo da non creare dissapori e gelosie. Oggi è più facile fare il manager perché l'artista può comunicare con i propri fan in qualunque momento attraverso il social network e per certi versi questo processo è incontrollabile. Quando ho iniziato invece, il manager doveva essere un fratello maggiore o addirittura un padre per molti artisti. Era lui l'unico filtro con il pubblico. Paul McGuinness lo sa bene come si fa il manager e dimostra questa sua abilità in più di una occasione per placare i dissidi interni che sorgono tra i vari componenti della band. Come per esempio quella volta in cui Adam Clayton, il bassista, viene messo in disparte per via delle sue convinzioni religiose molto meno radicate rispetto ai cattolicissimi Bono, Larry e The Edge. Paul McGuinness riesce a mediare la situazione nel migliore dei modi, tant'è che Adam si ritrova a fare il testimone di nozze al matrimonio di Bono. È potente la voce di Bono Vox nelle canzoni degli U2. Il gruppo rivelazione che tra il 1978 e il 79 comincia a farsi conoscere al pubblico irlandese e si affaccia timidamente nella vicina Gran Bretagna. Al loro fianco Paul McGuinness, da tutti considerato il quinto componente del gruppo. Lui si dà da fare per portare al successo che meritano i quattro ragazzi di Dublino. 11 o'clock. Take. Bono sembra aver trovato in McGuinness la figura paterna che gli manca. Il suo rapporto col padre, infatti, è molto conflittuale. Da quando ha soli 14 anni, sua madre muore improvvisamente per una emorragia cerebrale. Il messaggio che suo padre Robert gli trasmette è: sognare vuol dire rimanere delusi. Ma proprio per combattere questo modo di pensare, Bono Vox affronta la sua vita e la sua carriera in modo ancor più deciso, convinto di poter invece realizzare tutti i suoi sogni. Il 1979 è l'anno della svolta. McGuinness riesce a strappare alla Island Records un contratto di ben 100.000 sterline, con cui la band produce il suo terzo singolo, 11 O'Clock, Tick Tock. Il successo discografico di un artista dipende da tre importanti componenti che si identificano in tre diversi ruoli. Il primo è ovviamente quello dell'artista, il secondo è quello del manager, che come abbiamo visto nel caso di Paul McGuinness assume un ruolo che va al di là del rapporto professionale. Il terzo componente che fa salire a un artista la scala del successo è la figura del produttore, colui che porta in sala d'incisione un bagaglio di esperienza musicale tale da essere capace di trasformare radicalmente lo stile dell'artista, di esaltarne i lati nascosti e di renderlo immortale. Proprio nel 1979 la strada di Bono e dei suoi compagni di avventura si incrocia con il terzo magnifico destino di oggi, Steve Lillywhite. Beh, che ti devo dire? Io non ho fatto l'università. Quando ho finito la scuola mi sono fatto la domanda su cosa volessi fare nella vita. E così mi sono detto: Steve, vuoi veramente continuare a studiare? E la risposta che mi sono dato è: assolutamente no. E così ho lasciato perdere. Lo so, è una cosa brutta, non sono certo una persona molto colta, ma oggi posso dire di saper fare questo fottuto mestiere, e questo mi basta e mi avanza. Steve Lillywhite è un fiume in piena, parla veloce come un razzo e durante le interviste riesce sempre a prendere in mano la situazione portando l'intervistatore a un ruolo di subalterno. Questa sua incredibile forza, Lillywhite, l'ha tradotta in lavoro. Un lavoro frenetico che gli ha fatto rimboccare le maniche a 16 anni e da apprendista in una casa discografica lo ha portato ad essere uno dei produttori più importanti di tutto il Regno Unito. Nel 1972 ascolta una demo di una nuova band inglese, gli Ultravox, e li porta al successo, dando il via a un nuovo genere musicale, la New Wave. Il mio più grande successo l'ho ottenuto con i Siouxsie and the Banshees nel 77, con il pezzo Hong Kong Garden. È stata una grossa sorpresa per me, ma non inaspettata. Io sapevo che quel pezzo sarebbe diventato famoso. Allora ho capito che non avrei girato hamburger per tutta la vita in un fast food, ma che era questo il mio mestiere: produrre dischi. Steve Lillywhite lavora alla Island Records, dove Paul McGuinness ha appena ottenuto un contratto per U2. Bono incontra negli studi Lillywhite e rimane stordito dalla forza e dall'entusiasmo che il produttore inglese gli dimostra. Abbiamo registrato il primo disco con Steve che avevamo 20 anni e lui 25 o 26. Per noi era il fratello maggiore, quello cresciuto che si carica addosso le responsabilità. E devo dire che ci riusciva benissimo. E noi ci lasciavamo guidare. Lillywhite sembra saper leggere nel pensiero di Bono. I suoi desideri, le preferenze musicali, ma anche le sue inquietudini, i suoi dubbi. Tutto sembra venir fuori come se Lillywhite avesse scoperchiato il vaso di Pandora. Bono si sente a suo agio con questo stravagante ed esuberante produttore e comincia a pensare che sia l'anello mancante nella catena che lo porterà al successo definitivo per il suo gruppo. I magnifici destini. Oggi stiamo rivivendo il magnifico destino di Paul David Hewson, che tutti noi conosciamo con il nome d'arte di Bono Vox, cantante e leader della band irlandese U2, gli U2. Con lui tre magnifici destini si sono incrociati all'inizio della carriera. Larry Mullen, alla cui iniziativa si deve la nascita del gruppo, Paul McGuinness, primo e unico manager della band, e infine Steve Lillywhite, che contribuisce a far diventare gli U2 una delle band più famose del mondo, come lui stesso racconta. È andata così. Paul McGuinness andò in CBS per parlare con Muff Winwood, fratello di Steve, il musicista, chiedendogli di produrre gli U2. Lui rispose: ok, ma dobbiamo cambiare il batterista. Il batterista? Ma è lui che ha fondato la band, si è diventato pazzo? E così McGuinness rinunciò a firmare e venne da me. L'esuberanza di Lillywhite è conosciuta tanto quanto la sua competenza nel produrre dischi. E così l'accordo è presto fatto. Lillywhite racconta in tono scherzoso come viene scelto dalla band irlandese. Agli inizi degli anni Ottanta stavo producendo Siouxsie and the Banshees, The Psychedelic Furs, e stavo anche iniziando a lavorare con i Simple Minds. C'era anche un gruppo da Manchester che si chiamava Joy Division. Il loro cantante, Ian Curtis, si suicidò giovanissimo e il loro produttore, che aveva prodotto anche il primo disco degli U2, non volle più andare avanti. Quindi io in un certo senso devo ringraziare Ian Curtis di essersi suicidato. No, ho detto una cosa terribile, cioè, sto scherzando. Lillywhite è un perfezionista e fornisce a Bono la scossa necessaria per fare uscire allo scoperto il carattere determinato che risuona nei due dischi successivi, Boy e October. Ma è con War che Bono e i suoi compagni di avventura compiono il vero salto di qualità. Il pezzo che li rende famosi e li porta successo in tutto il mondo è Sunday Bloody Sunday. The trenches dug within us. Steve Lillywhite indossa i panni del comandante della nave e si butta in mare aperto alla ricerca del successo. In fondo è questo il suo lavoro e lui lo adora. Quando ci trovammo in studio io feci una cosa che fanno un po' tutti i produttori. Cominciai a camminare avanti e indietro per le sale, i corridoi, battendo le mani. Poi alla fine mi trovai vicino al centralino e dissi: qui, è senz'altro qui che va la batteria, in questo punto sarà una bomba. E così, invece di utilizzare una delle sofisticatissime sale, spostammo la scrivania della segretaria e registrammo il disco in reception. Se ascoltate con attenzione il disco, a un certo punto sentirete anche squillare un telefono. Il grande circo del successo è finalmente partito e uno dopo l'altro vengono realizzati album che sono entrati di diritto nella storia della musica. Prodotto da Brian Eno, esce nel 1984 The Unforgettable Fire, che contiene il singolo Pride, grazie al quale la band raggiunge il successo anche negli Stati Uniti. Proprio in quell'anno accade un evento importante che influisce moltissimo sul carattere di Bono e che influenza da quel momento tutta la sua vita. Partecipare al progetto Band Aid è un grande onore per me. Bob Geldof ha senza dubbio cambiato le nostre vite, ci ha aperto gli occhi su problemi neanche lontanamente paragonabili al più grande tra quelli che assillano la nostra semplice vita. Aiutare un intero continente a salvare la vita dei loro figli vale più di milioni di dischi venduti. Con la partecipazione al progetto Live Aid, grazie al quale l'intero mondo della musica si mobilita nella più grande raccolta fondi mai realizzata, Bono affronta di petto un impegno sociale che gli permette di capire che c'è molto di più al di là delle classifiche e delle vendite, degli stadi pieni di gente che applaude. Da quel momento Bono affianca alla sua vita di musicista un impegno verso i problemi sociali che caratterizza tutta la seconda parte della sua carriera. Ecco le sue parole pronunciate alla Casa Bianca quando incontra George Bush in occasione del suo impegno per l'azzeramento del debito dei paesi del terzo mondo. Sarebbe più facile e più alla moda per me stare sul fronte del palco con qualcosa che mi tappi il naso. Sembra essere la cosa migliore per una rock and roll star, ma posso fare di meglio proprio entrando alla Casa Bianca e parlando a un uomo che io credo ascolti e voglia sentir parlare di questi argomenti. Bono è diventato grande. Non è più il ragazzino introverso che all'inizio della carriera regge con difficoltà le interviste. Oggi Bono è un artista al 100%, capace di effettuare incursioni anche in altri settori come il cinema, collaborando con Wim Wenders alla stesura della sceneggiatura del film The Million Dollar Hotel. Lo stesso Steve Lillywhite ci ricorda ancora come anche lui abbia notato questo cambiamento. Beh, di solito le band, gli artisti, all'inizio della carriera sono sempre euforici, pieni di entusiasmo. E dopo si calmano, diventano musoni, riflessivi, schiacciati dai problemi. Sai, la fama, i soldi, i tour, le interviste. Con Bono è stato tutto il contrario. All'inizio era timido e silenzioso. Oggi riesce a tenere testa a presidenti e regine. I magnifici destini. I Magnifici Destini oggi vi sta raccontando la splendida carriera di Bono Vox, cantante del gruppo irlandese U2, gli U2. Con il successo e la notorietà arriva anche la possibilità di affrontare nuove e stimolanti sfide artistiche. Non parliamo in questo caso di magnifici destini che si incontrano e condividono una parte della loro carriera, parliamo di stelle del firmamento musicale che si sfiorano, dando vita a canzoni destinate a rimanere nella storia. Una di queste è She's a Mystery to Me, che Bono Vox scrive nel 1989 per uno dei cantanti più importanti della storia del rock and roll, Roy Orbison. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth, no one could look as good as you. Roy Orbison potrebbe essere il padre di Bono Vox. Nella sua carriera ha avuto come compagni di viaggio Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis. I close my eyes. Ho conosciuto la musica di Roy molto tardi, attraverso il disco In Dreams. La sera prima di un concerto a Wembley iniziai ad ascoltare questo magico brano e non riuscivo a smettere di suonarlo, andando avanti per tutta la notte. La canzone è composta da 5 o 6 melodie differenti, tutte mescolate insieme, e rompe ogni regola della musica pop. Poi una melodia iniziò a ronzarmi nella testa. Mystery. She's a mystery to me. E scrissi la canzone. La sera dopo, nei camerini del backstage, Bono riceve una visita inaspettata. È Roy Orbison che ha visto il concerto e vuole fare i complimenti alla band. Bono è sbalordito e pensa che sia tutto uno scherzo. Ero stordito. Roy Orbison che vuole conoscermi e congratularsi. Fino a 5 minuti prima sarei stato io a fare carte false per incontrarlo. Lui entrò e, parlandomi con quella sua voce sussurrata che lo caratterizzava, mi disse che gli sarebbe piaciuto scrivere qualcosa insieme. Dopo qualche giorno gli feci sentire Mystery Girl e lui rimase incantato. Roy Orbison si è innamorato della canzone scritta da Bono e vuole inciderla nel suo nuovo disco. Quando i due si ritrovano in sala di registrazione davanti al microfono, Bono è colto da un certo imbarazzo. Io gli stavo accanto e aspettavo che cantasse la sua parte, che prevedeva un passaggio sottovoce, al limite del sussurro. Ma niente. Aspetto un altro take e nulla. Credevo stesse solo leggendo il testo del brano. Dopo, quando ascoltai la registrazione, la sua voce era la voce sussurrata più forte che io abbia mai sentito. Non mi ero accorto perché lui non muoveva quasi le labbra quando cantava. La sua parte a disco finito è quella che sovrasta le altre. Un mistero. Non si capisce da dove arrivi, ma arriva. Passano poco più di 3 anni, ed ecco un altro pezzo di storia della musica chiedere a Bono di duettare una canzone tra le più celebri del mondo. È Frank Sinatra che nel 1993 pubblica l'album Duets, un album che raccoglie una serie di duetti con i più famosi cantanti del momento. Per la realizzazione del disco viene utilizzata per la prima volta una nuova tecnologia, il collegamento ISDN, che permette di registrare in digitale, a distanza e in tempo reale, attraverso le normali linee del telefono. In questo modo Sinatra e Bono cantano in contemporanea il loro duetto sulle note di I've Got You Under My Skin, registrando l'uno a Los Angeles e l'altro negli studi di Dublino. I giornali dell'epoca titolano Sinatra e Bono duettano al telefono. Prima Roy Orbison, poi Sinatra. È tutto incredibile. Ma la cosa più incredibile è pensare che due persone riescano a condividere una sala di registrazione grande quanto tutto il mondo. I have tried so not to give in. I have said to myself this affair never gonna go so well. But why should I try to resist when baby I know so well that I've got you under my skin. Sono passati quasi 30 anni da quando 4 ragazzini irlandesi si sono incontrati nella cucina di Larry Mullen e hanno dato vita al loro sogno. Un sodalizio che ha attraversato momenti di tensione, ma che alla fine ha resistito, permettendo a milioni di persone di vivere l'emozione della musica degli U2. Bono Vox, con la sua voce inconfondibile, ha duettato con artisti di fama mondiale, Roy Orbison, Frank Sinatra, Mary J. Blige. Nel 2005 ancora un duetto, ma questa volta la preoccupazione principale è attirare l'attenzione su un problema enorme che colpisce milioni di persone. A questo problema Bono Vox non vuole restare indifferente. Keep a Child Alive è un'associazione nata in Kenya nel 2002 che si occupa di fornire assistenza medicale ai bambini che sono stati contagiati dal virus HIV. In Africa, la mortalità infantile provocata dall'AIDS è altissima. Bono e Alicia Keys sono entrambi testimonial dell'associazione Keep a Child Alive e per questo decidono di interpretare un duetto per sensibilizzare l'opinione pubblica al problema dei milioni di bambini contagiati o rimasti orfani in conseguenza dell'AIDS. La canzone prescelta è Don't Give Up, che già Peter Gabriel ha portato al successo in un indimenticabile duetto con Kate Bush. Ma quest'ultima iniziativa umanitaria non è e non sarà l'ultima che coinvolge Bono Vox. Io sono un uomo fortunato. Posso fare ciò che voglio, dire ciò che voglio, andare dove voglio. Ci sono bambini che non hanno questa fortuna. La loro unica fortuna è quella di aver vissuto un giorno più del precedente. Per loro io cerco di combattere una guerra quasi impossibile da vincere, per dar loro un futuro in cui sperare.